Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina? Io lavoro, io faccio, io metto, io tolgo, io lavoro, io faccio, io metto, io tolgo, io lavoro, io faccio, io metto, io tolgo, io lavoro, io faccio, io metto, io tolgo. Vedi di non rompermi i coglioni mentre sto dormendo, che t'ammazzo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.